24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, ben trovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano le nuove e attese previsioni economiche nell'Eurozona. Bruxelles prevede una stagnazione nel 2012 con una ripresa il prossimo anno. In peggioramento la crescita italiana, ma Roma centrerà il pareggio di bilancio in termini strutturali. Sempre alta la tensione sulla Grecia, con la Germania che lancia forti segnali di monito ad Atene. Infine l'Europa verso sanzioni e congelamento dei rapporti diplomatici con Ucraina e Siria. Tra poco vi spiegheremo perché. E come dicevamo, la Commissione europea ha reso note venerdì le attese previsioni economiche. In Italy, GDP is expected to be weak. Il commissario agli affari economici Olli Rehn, che state ascoltando, ha detto che per quanto riguarda l'Italia la situazione peggiorerà. Le stime prevedono per il 2012 una diminuzione del PIL dell'1,4% contro il meno 1,3% previsto a febbraio. Bruxelles stima per il 2013 una ripresa positiva con un aumento dello 0,4% del PIL rispetto allo 0,5% previsto dal governo. L'Italia raggiungerà nel 2013 il pareggio di bilancio in termini strutturali senza bisogno di manovre aggiuntive, ha precisato il commissario Rehn. Questo grazie alle misure di risanamento supplementari già prese per oltre mezzo punto di PIL. Bruxelles si attende che il deficit italiano si attesti in calo al 2% nel 2012 e all'1,1% nel 2013. Sempre alle stelle il debito si attesterà al 123,5% del PIL nel 2012 e al 121,8% nel 2013. La Commissione non ha particolari timori sul percorso di aggiustamento dei conti italiani, così hanno affermato fonti concordanti delle esecutivo comunitario. E sul fronte più ampio, la Commissione europea prevede per l'Eurozona una stagnazione nel 2012 con una ripresa nel 2013. Per la zona euro, PIL in calo dello 0,3% quest'anno, in aumento dell'1% nel 2013. La ripresa è in vista, ma la situazione resta fragile, così il commissario Rehn. Occupazione ancora in calo, nell'Eurozona la diminuzione degli occupati sarà dello 0,5% nel 2012, disoccupati record all'11% quest'anno. Male l'Italia, nell'attuale biennio e senza lavoro continueranno a crescere, l'incremento sarà superiore all'1% rispetto al biennio precedente. Infine, notizie negative dai grandi malati dell'Eurozona. La Commissione europea prevede che, a politiche invariate, il deficit di bilancio della Grecia tornerà a peggiorare il prossimo anno con un disavanzo all'8,4% del PIL a fronte del 7,3% nel 2012. Sempre per quest'anno si attende il quinto anno consecutivo di recessione. Sulla Spagna, Madrid dovrebbe sforare pure quest'anno gli obiettivi di riduzione del deficit con un disavanzo al 6,4% del PIL. La Spagna rischia uno sforamento anche nel 2013 con un deficit praticamente invariato. Madrid sarà in recessione l'anno prossimo, unico paese con crescita negativa nell'Unione a 27. Ebbene, 9 paesi sui 17 dell'Eurozona avranno un deficit superiore al 3% nel 2013 se non prenderanno nuove misure. E quanto emerge dalle previsioni economiche della Commissione, tra questi 9 paesi ci sono anche la rigorista Olanda meno 4,6% e la Francia meno 4,2%. E sentiamo ora da Bruxelles il commento del corrispondente di Radio Cor Antonio Poglio Salimbeni. Ma sì, l'ho detto molto esplicitamente, si tratta del pareggio di bilancio in termini strutturali, questo vuol dire che si toglie dal calcolo nominale del deficit in rapporto al prodotto lordo, si tolgono gli effetti del ciclo economico, che in questo caso è negativo perché siamo in recessione, e gli effetti delle misure una tantum, quindi non c'è nessun problema. L'Italia, ha detto il commissario europeo, è in linea con le indicazioni del patto di stabilità e di crescita, cioè con la disciplina di bilancio europea. Ci sono anche buone notizie o nessun dato positivo? Per quanto riguarda l'Italia, è la conferma, lo ha detto esplicitamente nella conferenza stampa Olli Rehn, che è stata perseguita nel corso della crisi finanziaria, della recessione, e continua a essere perseguita una politica prudente dal punto di vista delle esigenze dei conti pubblici. Per quanto riguarda lo scenario in cui si colloca l'economia italiana, naturalmente è stato detto che l'economia italiana cresce ancora troppo poco, ed è la vera palla al piede dell'economia, della nostra economia. Lo scenario europeo, dicevo, è dei più incerti. Siamo in una recessione dolce, la verità è che lo stesso Olli Rehn ha ammesso che senza un'azione determinata dei governi per sostenere la crescita e per rendere credibile da questo punto di vista le stesse misure di austerità sociale e finanziaria, la situazione potrebbe peggiorare. Fa piacere che Olli Rehn affermi che affinché l'Italia raggiunga il pareggio non c'è bisogno di una nuova manovra, così il premier italiano Mario Monti, aggiungendo che per arrivare al pareggio previsto ci sono già le misure introdotte. Intanto dalla Germania partono nuovi moniti alla Grecia. Il rischio di contagio per gli altri paesi europei di un'uscita della Grecia dall'euro è ridotto, sostiene il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble. Il suo collega degli esteri Guido Westerwelle aggiunge che il futuro della Grecia nell'eurozona è nelle mani dei greci, che devono continuare con il programma di austerità che l'elettorato di Atene ha appena bocciato, pena la sospensione dei finanziamenti internazionali. La Germania fa la voce grossa, difficile dire se si tratta di dichiarazioni preelettorali, visto che domenica si vota nel Nordrhein-Westfalia, lo stato più popoloso dove vive un quarto dei tedeschi, un test importante per il cancelliere Angela Merkel in vista delle politiche dell'anno prossimo. Il governo punta tutte le sue carte sul rigore fiscale e l'inflessibilità verso i paesi debitori d'Europa, una linea che piace al contribuente tedesco. Oppure potrebbe trattarsi di una forma di pressione sui partiti in Grecia per far prevalere nella formazione del governo quelli che continueranno a sposare l'austerità concordata in cambio degli aiuti dall'estero. Può essere però un gioco pericoloso, di certo la prima reazione dei mercati finanziari mostra che non a tutti piace, che il pericolo di contagio è tutt'altro che eliminato. Alessandro Merli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Francoforte. La voce che state ascoltando è quella del presidente americano Barack Obama, che giovedì ha parlato a Seattle. Tra i temi toccati anche quello della crisi nel vecchio come nel nuovo continente. L'Europa soffre ancora delle conseguenze della crisi finanziaria perché non ha adottato le misure per la ripresa degli Stati Uniti. I problemi dell'Europa possono ancora contagiare l'America, ha aggiunto l'inquilino della Casa Bianca. Nell'Unione Europea il 68% del reddito da pensione è assorbito dal costo della vita, una percentuale alta ma di gran lunga superata da quella dell'Italia, che si attesta intorno all'84%, e quanto emerge da elaborazioni SPI-CGL presentate al convegno l'Unione Europea tra paure e speranze. È la creazione di un fondo europeo di garanzia per i giovani dotato di 10 miliardi di euro dei fondi strutturali europei, la proposta del Partito Socialista Europeo per combattere la disoccupazione giovanile che attualmente colpisce 5,6 milioni di cittadini. Il fondo potrebbe creare 2 milioni di posti di lavoro entro il 2014. La fiducia dei consumatori americana, salita ai massimi dal gennaio 2008, ha riportato fiducia venerdì sui listini europei che, dopo una mattinata negativa, hanno recuperato nel finale. A Milano FTSE MIB a più 0,29%. La fiducia dei consumatori americani, salita ai massimi dal gennaio 2008, ha riportato un po' di fiducia sui listini europei che però hanno chiuso contrastati. Ai cali di Madrid e Atene hanno fatto da contraltare i rialzi di Francoforte e Londra. Anche Milano è riuscita a chiudere in positivo col FTSE MIB a più 0,29% e il FTSE All Share a più 0,43%. Ancora in recupero A2A più 5,9% dopo la trimestrale e le incoraggianti prospettive sul 2012. Al contrario sono più vendite sul settore bancario, che ha pagato i 2 miliardi di perdite annunciati da JP Morgan relativamente ad alcune operazioni sui derivati. Intesa San Paolo, Banco Popolare, MPS e Unicredit hanno così tutte perso attorno all'1%. Sotto i riflettori infine la galassia Ligresti. La definizione dell'accordo con Unipol appare ormai addirittura d'arrivo e Fonsai ha guadagnato quasi il 20%, mentre Milano Assicurazioni ha fatto segnare un più 7,5% e Premafin più 2,5%. Guido Maurino, da Radio Corp, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'Unione Europea si prepara a congelare l'accordo di associazione con l'Ucraina per protestare contro il trattamento riservato alla leader dell'opposizione Yulia Tymoshenko. La questione sarà quasi certamente decisa lunedì dai ministri degli esteri europei. E sempre lunedì l'Europa continuerà la pressione sul regime siriano. I ministri degli esteri comunitari prenderanno nuove misure restrittive. Le sanzioni colpiranno i beni di 2 imprese e 3 individui fonti di finanziamento per il regime. Catherine Ashton, alto rappresentante europeo, e il ministro degli esteri iracheno Oshar Zebari hanno firmato venerdì a Bruxelles l'accordo di cooperazione e partnership tra Unione Europea ed Iraq. L'accordo stringe legami commerciali e politici. In 12 anni l'Italia ha totalizzato 59.000 marchi comunitari e 44.000 brevetti. Prodotti di largo consumo, sistema moda, dispositivi elettronici, elettrici, ottici, digitali, occhiali e caschi. Questi gli ambiti più diffusi nei quali la creatività italiana ha chiesto e ottenuto la tutela delle proprie produzioni in Europa attraverso la registrazione del marchio comunitario. Ad affermarlo l'osservatorio Union Camere. Ed era questa l'ultima notizia per l'appuntamento con 24 ore in Europa. Un grazie come sempre a Daniele Teruzzi per l'assistenza in regia. Una buona giornata da Sergio Nava.